la pelle chiara ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta. I tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa? Ci fermeremo a parlare tra un giorno e un caffè al volo, con la fretta di portare i bimbi a scuola e poi lavoro. Le vacanze prenotate, una casa in riva al mare. Meno male che non ci dovevamo dimenticare. Nella tua ansia per gli esami, la mia macchina un 14 ci ha portato ovunque quando cercavamo il nostro posto. Dentro i baci che mi davi c'era il senso della vita. Ci sembrava fosse un gioco, abbiamo perso la partita. Siamo andati avanti perché così è giusto. Ho preso pure un cane, un divano nuovo, ma l'ho già distrutto. Ricominciare da capo con qualcuno a caso, di cui non so quasi niente a parte che non ha il tuo odore, il tuo nome e cognome. Ora non mi va. Ci fermeremo a parlare tra un giornale e un caffè al volo, con la fretta di portare i bimbi a scuola e poi lavoro. Le vacanze prenotate, una casa in riva al mare. Meno male che non ci dovevamo dimenticare. Della tua ansia per gli esami, la mia macchina un 14 ci ha portato ovunque quando cercavamo il nostro posto. Dentro i baci che mi davi c'era il senso della vita. Ci sembrava fosse un gioco, abbiamo perso la partita. Sopra i treni regionali io ti tengo ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.